luci colorano tutto di blu. Io su questo palco e davanti ci sei tu, tu con i tuoi sogni di una vita intera che vorresti vivere tutti in una sera. Allora va, va, va, che questa sera si fa, si fa, che questa sera si fa, si fa. Emozioni che nascono da queste note, la voglia di cantare ti prende il cuore, le voci che si uniscono in un coro vero, tutti insieme urliamo verso il cielo. Allora via, via, che cominci la magia di questa notte di notte muta.